cari amici del Vagabondo, benvenuti alla quarta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino, e la puntata di oggi sarà, diciamo, un reprise della puntata precedente. Se ci avete ascoltato, se ci avete seguito, ricorderete che avevamo affrontato il tema dei social network e in particolare il tema delle persone che condividono gli articoli senza nemmeno leggerli. Allora, in questa quarta puntata abbiamo avuto l'idea di analizzare un altro tipo di comportamento dei frequentatori di social network, vale a dire l'essere tuttologi, l'essere quelli che commentano indistintamente qualsiasi notizia, qualsiasi articolo, che sono profondi conoscitori di qualsiasi tipo di materia. L'argomento è chiaramente molto attuale e ci presenta di fronte, dal mio punto di vista, i nuovi tuttologi come li chiamo io 2.0. Non so se quando eravate ragazzi voi anni fa ricordate di quando andavate magari al bar piuttosto che in piazza o anche a scuola, per dire, o al campetto a giocare a calcio. Tutti abbiamo avuto degli amici che qualsiasi cosa un'altra persona dicesse, qualsiasi cosa fosse accaduta e compagnia bella, lui ne sapeva più di tutti, lui alzava la voce pur di far valere la sua ragione, pur di far passare la sua idea. Lui aveva la mamma piuttosto che la nonna, il babbo, che avevano già fatto quella cosa meglio di qualsiasi altro, meglio di chiunque altro, quando non l'aveva fatto chiaramente lui stesso. Ecco, quelli erano i tuttologi analogici, così, per chi dirla con una battuta. Oggi abbiamo invece i tuttologi 2.0, chiaramente quelli che commentano su i social network le notizie senza saperne una bene amata semplice, così come si dice. Una massima che ho letto in tempi non sospetti proprio su un social network, non so chi è che l'ha scritta, non so chi è che l'ha pensata, mi dispiace non poterlo citare, però proprio non lo so, recitava questo: un tempo i tuttologi si trovavano al bar, dicevano le loro verità su qualsiasi cosa, erano considerati da tutti gli scemi del paese e finiva lì. Ognuno poi se ne tornava a casa propria e finiva lì. Oggi invece le stesse persone cosa fanno? Non escono più da casa, commentano sui social network qualsiasi tipo di notizia, conoscono qualsiasi tipo di soluzione, la buttano su un social network, trovano sparsi per il mondo altri tuttologi come loro, che come loro appunto stanno sui social network a fare questo, si danno ragione a vicenda e ricondividono indiscriminatamente delle cose false o delle bufale incredibili e chiaramente si danno manforte così. Quindi il tuttologo 2.0, attenzione, molto più potente, perché usa uno strumento molto più potente, perché chiaramente prima cosa succedeva? Andavamo fuori, ci conoscevamo da sempre e lo sapevamo se una persona era o ci faceva, e invece in questo modo chiaramente c'è un po' di beneficio del dubbio, anche se chiaramente succede a me, quindi io mi immagino che succeda un po' a tutti chiaramente no, ma insomma a molte persone, a molti di voi, cosa vi succede? Vi succederà di leggere di persone che voi conoscete anche personalmente e ai quali non gli affidereste nemmeno la gestione, che ne so, di un pacchetto di caramelle, perché non ce la farebbero a tenerla, e poi pubblicano su Facebook magari o sui social network, non voglio fare pubblicità, pubblicano sui social network, che ne so, soluzioni alla crisi mondiale, soluzione al problema, ai problemi del lavoro, della fame nel mondo, piuttosto che della guerra, di qualsiasi cosa. Queste sono persone che non si riguardano, hanno imparato tutto e ce lo vogliono dire, chiaramente, quando si leggono queste cose da persone che conosciamo dal vero, che sappiamo che persone sono, cade tutto, cioè dici vabbè, ma com'è che Tizio piuttosto che Caio mi condivide sempre sta roba, mi commenta sempre sta roba quando ha durato fatica a finire le scuole medie. Ci sono chiaramente tanti esempi che avallano questa cosa, questa tesi. E ad esempio, prendiamo un argomento a caso, mi ricordo quando ci fu quel tentativo di golpe in Turchia, o almeno così ce l'hanno raccontato, quello che ci dicevano essere un tentativo di golpe, chiaramente subito i nostri valorosi tuttologi 2.0 arrivavano a commentare la vicenda, la notizia, senza saperne assolutamente niente, ma non solo del golpe in sé, ma nemmeno della Turchia. Ma questa magari è gente che si confonde sulla capitale della Turchia, che pensa che sia Istanbul invece della capitale reale. Chiaramente, fino al momento prima, queste persone della Turchia manco gliene portava niente. È successa sta cosa e subito schiere di tuttologi, chi a favore di Erdogan, chi contro Erdogan, chi a favore del golpe, chi contro il golpe, e hanno fatto bene e hanno fatto male. Ah sì, ma io ho sentito quel politologo lì dirlo a quella televisione lì, e allora sarà sicuramente così, e via. E questa è una catena che ha preso una piega molto molto molto prepotente, diciamo, e chiaramente c'è anche da chiedersi il perché facciano questo pur non sapendo delle cose. Cioè, a me non me ne verrebbe nemmeno mai di sognarmelo, di commentare o addirittura cercare di voler istruire qualcun altro su un argomento che io stesso per primo non conosco. Però ci sarà tipo la desiderio di considerazione, ci sarà da soddisfare un ego un po' smisurato, ci sarà una sottile soglia di infelicità personale nella vita reale, chi lo sa, probabilmente ci saranno dei per qualcuno, ci sarà un personaggio da mantenere. Ad esempio, se una persona, non voglio buttarla sulla politica, ci mancherebbe altro, ma se una persona è sempre stata verde piuttosto che gialla, e chiaramente deve, anche se poi magari si accorge tutto quello in cui ha creduto e tutte le cose che ha fatto non sono proprio vere, non sono proprio giuste, tutto quanto, però sui social network, nel mondo virtuale, ha da mantenere un personaggio, e lo fa anche commentando le cose chiaramente sempre in una direzione. Ad esempio, tempo fa c'è stato nel secolo XIX un articolo nel secolo XIX online, ricondiviso poi sui social network. L'articolo praticamente è il titolo dell'articolo recitava che una persona aveva tentato di darsi fuoco di fronte a moglie e figlia perché aveva perso il lavoro. Nel giro di qualche ora, svariate centinaia di commenti, tutte dello stesso tenore praticamente, e cioè prima gli italiani, e gli italiani di qui, e non l'aiuta nessuno e tutto quanto. Quando poi sarebbe bastato aprire l'articolo e leggerlo, o leggere e comprendere gli articoli, che fatica, molto più facile condividerli senza farlo, avendo aperto l'articolo avrebbero scoperto che il protagonista di questa triste storia di disagio era per l'appunto uno straniero. E tant'è, mi viene da chiedermi, ma se leggere è così difficile, se leggere richiede così tanto tempo, com'è che ci avete tempo non per leggere, ma per stare sui social network tutto il giorno a condividere bufale, o a condividere cose non vere, o a commentare cose di cui non sapete assolutamente niente? Bene, mi direte, ma chi te lo dice a te che non ne sanno niente? A nessuno, ci mancherebbe altro, io non è che sto lì a controllare tutto e tutti. Mi rifò un po' agli esperimenti, a cose scientifiche anche che trovo in giro, e praticamente cosa ho trovato girellando, vagabondando sulla rete? Ho trovato che lo Science Post, un sito satirico americano, ha fatto una ricerca, perché chiaramente io mi sono un po' accorto di queste cose che vi dico, me ne sono un po' accorto e ve le dico, poi chiaramente molti di voi se ne saranno già accorti da soli, ma qualcuno magari no. Si sono accorti anche loro di questa tendenza delle persone e hanno fatto un esperimento. Hanno fatto un articolo falso che serviva a catturare like e attenzione da parte della persona, e per fare questo gli hanno dato un titolo molto accattivante, vale a dire tipo: ricerca, il 70% degli utenti dei social network legge solo il titolo di quello che condivide. Cosa è successo? Questo articolo è stato condiviso 46.000 volte, non so in quanto tempo, ma 46.000 condivisioni sono tantissime, e l'articolo non è stato letto. Come si fa a evincere questo? Si dice perché l'articolo era stato scritto in lorem ipsus, era questa la beffa creata da quelli dello Science Post. E cos'è lorem ipsus? È praticamente un testo privo di senso che viene usato addirittura dai designer per bozzetti e prove grafiche. Quindi niente di che, niente di sensato, niente discorsi, niente di niente, solo lettere messe a caso per fare delle prove grafiche. Eppure l'articolo ha avuto 46.000 condivisioni. Ancora, queste cose sono state anche analizzate in maniera più scientifica da università come la Columbia, come il French National Institute, che poi in un articolo del Chicago Tribune è stato divulgato. Praticamente i risultati delle ricerche della Columbia University e del French National Institute dicono che il 59% dei link condivisi sui social non sono mai stati cliccati, 6 su 10 non sono nemmeno stati cliccati. Figuriamoci quelli che cliccati che poi sono stati effettivamente letti. Molto pochi mi sa. Ma perché? Probabilmente non c'è più voglia di sforzarsi a capire le cose, non c'è più voglia di approfondire. C'è una cultura del subito, tutto subito e veloce, che ci porta anche ad essere chiaramente menefreghisti. Ma tant'è, questo è il mondo odierno e questo cerchiamo un attimino di capire per viverci al meglio. Allora, cari amici del Vagabondo, siamo arrivati al termine di questa quarta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Mi auguro che vi siate divertiti a seguirmi fin qua e chissà, probabilmente, come l'ho ripreso oggi, il tema dei social è un tema caldo, è un tema attuale, è un tema che ci coinvolge tutti, e probabilmente lo riprenderemo ancora analizzandone magari altri aspetti, analizzandone magari altri comportamenti delle persone. Detto questo, non mi resta che salutarvi, cari amici del Vagabondo, e darvi appuntamento alla quinta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Ciao a tutti!